Paragrafo primo. I principali problemi filosofici o aporie. In relazione alla scienza su cui verte la nostra attuale indagine, noi abbiamo anzitutto il dovere di affrontare quelle difficoltà che sono le prime a richiedere di essere discusse. E queste difficoltà risiedono nella diversità delle concezioni che si sono avute a proposito dei primi principi. E anche a prescindere da ciò, nel fatto che talune cose sono sfuggite alla riflessione dei vari pensatori. Ora, se si intende dare una felice soluzione alle difficoltà, è utile farne immediatamente un'approfondita e corretta disamina, già che lo stato di agiatezza in cui dopo verremo a trovarci non è altro se non lo scioglimento delle precedenti aporie, ed è impossibile sciogliere quando non si conosca il nodo. La perplessità del pensiero, invece, sta a indicare proprio la presenza di un tal nodo nell'oggetto dell'indagine, già che per tutto il tempo che la mente versa nell'aporia è più o meno nelle condizioni di un uomo incatenato. In entrambi i casi, infatti, non si può fare un passo in avanti. Ecco perché è necessario prima considerare approfonditamente tutte le difficoltà, non solo per le ragioni accennate, ma anche perché chi si mette a fare un'indagine senza aver prima ponderato le difficoltà somiglia a chi ignora verso quale direzione debba muovere i passi. E inoltre perché egli non si rende conto se abbia o non abbia trovato quello che sta cercando. Costui, infatti, non scorge con chiarezza il fine, mentre al contrario il fine è ben chiaro per chi precedentemente abbia saputo impostare il problema. Inoltre, ci si trova in una migliore condizione per giudicare quando si sia dato ascolto a tutte quante le tesi contrastanti, proprio come avviene nelle controversie giudiziarie. Il primo problema concerne argomenti di cui abbiamo discusso nei preliminari, cioè se sia compito di una sola o di più scienze lo studio delle cause. 2. Ci domandiamo inoltre se sia compito della scienza contemplare soltanto i primi principi della sostanza, oppure se essa debba occuparsi anche dei principi da cui scaturiscono tutte le dimostrazioni, ad esempio se sia possibile o no affermare o negare nello stesso tempo una sola e medesima cosa, e di altri principi siffatti. 3. Considerando che la scienza si occupa della sostanza, ci si chiede se vi sia una sola scienza o se vi siano più scienze per tutte le sostanze, e, nel caso che ve ne siano di più, se esse appartengono tutte quante ad un genere comune, oppure alcune noi dobbiamo considerarle come parte della sapienza e altre come qualcosa di diverso. 4. Ed ecco anche un'altra questione su cui dobbiamo portare l'indagine, se cioè si debba affermare l'esistenza soltanto delle sostanze sensibili o anche di altre al di fuori di esse, e se di queste altre sostanze esista un unico genere o esistano più generi, come pensano quelli che, oltre le idee, hanno posto anche gli enti matematici come intermedi tra le idee stesse e gli enti sensibili. Su questi problemi, secondo noi, bisogna condurre l'indagine. 5. E così pure dobbiamo chiederci se il nostro studio concerna solo le sostanze o anche gli attributi essenziali di queste. E inoltre, a proposito dello stesso e dell'altro, del simile, del dissimile e della contrarietà, del prima e del poi e di tutti gli altri termini siffatti che i dialettici tentano di esaminare conducendo l'indagine solo in base alle opinioni, noi ci chiediamo a quale scienza sia riservato lo studio di tali cose. E oltre a ciò, si deve esaminare quanti siano gli attributi essenziali di queste stesse cose, e non solo l'essenza di ciascuna di esse, ma anche se ciascuna di esse singolarmente abbia un solo contrario. 6. E se i principi e gli elementi si identificano con i generi oppure con le parti immanenti in cui ciascuna cosa particolare è divisa. 7. E qualora si identifichino con i generi, bisogna esaminare se si tratti di generi che sono i predicati più vicini agli individui oppure i generi primi, ossia ad esempio se animale o uomo sia principio e quindi abbia un'esistenza più autentica accanto alle cose particolari. 8. Ma soprattutto bisogna ricercare ed esaminare con impegno se esista o no, al di fuori della materia, qualche altra causa che sia tale di per sé e se essa sia separata o no. E se essa sia una sola oppure ve ne siano di più, e se esista qualcosa al di fuori del sinolo, Uso il termine sinolo quando un qualcosa viene predicato della materia, o se non esista nulla, oppure se esista qualcosa di separato per certi enti e per altri no, e quali siano tali enti. 9. Oltre a ciò, ci dobbiamo chiedere se i principi siano limitati per numero o per specie, tanto se si tratti di quelli presenti nelle definizioni, quanto di quelli presenti nel sostrato. 10. E se i principi delle cose corruttibili e di quelle incorruttibili siano identici o differenti, e se siano tutti incorruttibili, oppure quelli delle cose corruttibili siano anch'essi corruttibili. 11. Ma oltre a ciò, il più arduo di tutti i problemi, quello che offre le più gravi difficoltà, è di stabilire se l'uno e l'essere non siano altro se non la sostanza stessa delle cose, come pretendevano i pitagorici e Platone. Oppure non sia così, ma ci sia qualche altra cosa che costituisca il sostrato, come sostiene Empedocle quando parla dell'amicizia, o altri filosofi quando parlano chi del fuoco, chi dell'acqua, chi dell'aria. 12. E di stabilire se i principi siano universali oppure somiglino alle cose individuali. 13. E se siano in potenza o in atto, e inoltre se la loro potenzialità o la loro attualità sia dovuta a qualche altra cosa che prescinda dal movimento, giacché anche questo problema presenta non lieve difficoltà. 14. Ma oltre a ciò ci dobbiamo chiedere se i numeri, le lunghezze, le figure, i punti siano sostanze o no, e nel caso che siano sostanze, se essi siano separati dagli oggetti sensibili oppure immanenti ad essi. Su tutti questi punti non solo è difficile conseguire la verità, ma non è neppure facile esaminare le difficoltà stesse in modo razionale e adeguato. Paragrafo secondo. Approfondimento delle prime cinque aporie. Prima. Orbene, esaminiamo in primo luogo l'aporia a cui abbiamo fatto cenno per prima, se cioè sia compito di una sola o di più scienze lo studio delle cause. Come mai, in vero, potrebbe essere compito di una sola scienza la conoscenza dei principi, dal momento che questi non sono contrari tra loro? Bisogna inoltre aggiungere che per molti enti non sono affatto riscontrabili tutti i principi. Come mai, infatti, si potrebbe riscontrare negli enti immobili un principio motore o la natura del bene, se è vero che è un fine tutto ciò che è buono di per sé e in virtù della propria natura, ed è in tal senso una causa per il fatto che le altre cose sono generate ed esistono in virtù di esso? E se d'altra parte è anche vero che il fine, ossia la causa finale, è pur sempre fine di una qualche azione, e tutte le azioni presuppongono un movimento. Onde risulterebbe che nelle cose immobili è impossibile concepire l'esistenza di un siffatto principio e la presenza di un bene in sé. Ecco perché, anche negli enti matematici, una siffatta causa non vale a provare nulla, né vi è alcuna dimostrazione fondata sul fatto che una cosa è migliore o peggiore. Anzi, nessuno, nella maniera più assoluta, ha fatto mai menzione di qualcosa di simile, tanto che, per questi motivi, alcuni sofisti, come Aristippo, disdegnavano le discipline matematiche, giacché a loro avviso, nelle altre arti, persino in quelle banausiche, quali sono ad esempio quella del fabbro o del calzolaio, ogni giudizio si esprime col dire che una cosa è migliore o peggiore, invece le discipline matematiche non tengono in nessun conto il bene e il male. D'altra parte, se esistono più scienze delle cause e se ciascuna di esse si occupa di un principio in particolare, quale di esse noi dobbiamo dire che sia quella da noi ricercata? O in altre parole, chi dobbiamo considerare massimamente competente dell'oggetto su cui stiamo indagando, fra tutti quelli che posseggono tali scienze? Difatti è possibile riscontrare la presenza di tutti i modi delle cause in un medesimo oggetto, e così ad esempio per una casa sono causa motrice l'arte del costruttore e causa finale l'opera compiuta. Sono causa materiale la terra e le pietre e causa formale il concetto. Orbene, se teniamo presenti le nostre precedenti distinzioni, fatte per sapere a quale scienza si addice il nome di sapienza, troviamo sufficienti motivi per per dare a ciascuna di esse un tale appellativo. Se infatti si tiene presente che la sapienza è sovrana e dominatrice, che le altre scienze, come sue schiave, non hanno il diritto di contraddirla, allora essa si identifica con la conoscenza del fine e del bene, giacché le altre cose esistono in virtù di quest'ultimo. Ma d'altra parte, in quanto si è stabilito che la sapienza è scienza delle cause prime e di ciò che è conoscibile per eccellenza, potrebbe identificarsi con essa la scienza della sostanza. Difatti, pur potendosi conoscere il medesimo oggetto in molti modi, noi affermiamo che chi sa distinguere l'oggetto per quello che esso è, lo conosce meglio di chi lo sa distinguere per quello che esso non è. E persino nel primo dei due casi, noi diciamo che c'è chi conosce l'oggetto meglio di un altro, e che lo conosce massimamente chi ne sa distinguere l'essenza e non già chi si limita a distinguerne la quantità o la qualità o la naturale propensione ad agire o a patire. Inoltre, anche negli altri casi, noi pensiamo che la conoscenza di una cosa in particolare, anche di quelle cose che richiedono una dimostrazione, abbia luogo solo quando noi ne conosciamo l'essenza. Così ad esempio, se ci si chiede qual è l'essenza della quadratura di un rettangolo, noi rispondiamo che è il ritrovamento della media proporzionale dei lati, e allo stesso modo in altri casi. Invece, se si tratta di nozioni concernenti le varie specie di generazione o di azione, oppure ogni sorta di cambiamento, noi crediamo di averne conoscenza solo quando abbiamo conosciuto il principio del movimento. Ma un tale principio è differente dal fine, anzi è opposto ad esso. E però sembrerebbe compito di scienze tra loro differenti lo studio di ciascuna di queste cause. Seconda aporia. Ma anche a proposito dei principi della dimostrazione, tali io considero quelle opinioni comuni dalle quali tutti gli uomini traggono le prove per dimostrare, è discutibile se essi siano l'oggetto di una sola o di più scienze, e così ad esempio circa la necessità che ogni cosa sia affermata o negata, e circa l'impossibilità di essere e di non essere allo stesso tempo, e circa tutte le altre premesse di tal genere. Noi ci domandiamo se la scienza di tali principi si identifichi con quella che studia la sostanza, oppure sia diversa da essa. E qualora non sia identica, quale delle due dobbiamo ritenere che sia quella da noi attualmente ricercata? Non è conforme alla logica che tali compiti siano pertinenza di un'unica scienza determinata, giacché non c'è alcun motivo per cui si debba occupare di tali principi in modo peculiare, ad esempio la geometria piuttosto che qualsivoglia altra scienza. E pertanto, se un tale compito è riservato parimenti a qualsivoglia scienza, ma nello stesso tempo non può essere riservato a tutte quante insieme, la conoscenza dei medesimi principi, come non è peculiarmente riservata alle altre scienze, così non è neppure patrimonio peculiare della scienza che studia la sostanza. Ma allora, in che senso vi sarà una scienza di tali principi? In realtà, anche nell'esperienza immediata, noi avvertiamo quale sia eventualmente ciascuno di questi principi, e pertanto anche altre arti se ne servono come di cose ben note. Ma se esiste per tali principi una scienza dimostrativa, sarà indispensabile porre l'esistenza di un qualche genere che faccia da sostrato e sostenere che alcuni principi sono attributi e altri sono assiomi. Infatti è impossibile dare dimostrazione di tutti, perché la dimostrazione deve necessariamente procedere da alcune premesse, occuparsi di un certo soggetto e pervenire ad una determinata prova. Donde risulta che tutte le cose dimostrabili rientrano in un unico genere, per il fatto che tutte le scienze dimostrative si basano sugli assiomi. Ma d'altra parte, se la scienza della sostanza e quella degli assiomi sono diverse tra loro, quale di esse è di sua natura più importante e meritevole di precedenza? Bisogna infatti ricordare che gli assiomi sono sommamente universali e sono principi di tutte le cose, e se al filosofo non spetta il compito di studiare a proposito di essi la verità e l'errore, a chi altro mai tale compito spetterà? Terza aporia. C'è poi una sola scienza che si occupa in linea generale di tutte le sostanze, o ce n'è più di una? E se non ce n'è una sola di quali sostanze, bisogna stabilire che si occupi la scienza su cui stiamo indagando. Non è d'altronde conforme alla logica che un'unica scienza si occupi di tutte le sostanze, già che in tal caso vi sarebbe anche un'unica scienza dimostrativa di tutti gli attributi, se è vero che ogni scienza dimostrativa che si occupi di un soggetto determinato studia gli attributi essenziali di questo basandosi sulle comuni opinioni. Pertanto, lo studio degli attributi essenziali, che si occupi di un solo e medesimo genere, è riservato a una sola e medesima scienza, che si basi sulle medesime opinioni. Difatti, il genere che fa da sostrato a tutte le sostanze viene studiato da una sola scienza, e anche da una sola scienza vengono studiati gli assiomi, tanto se queste due scienze si identifichino quanto se siano differenti, e di conseguenza anche gli attributi verranno studiati da un'unica scienza, tanto che si occupino di essi queste medesime scienze, quanto se si occupi di essi una scienza sola che da esse deriva. Quinta aporia. Inoltre, noi ci chiediamo se la nostra scienza si occupi solo delle sostanze o anche degli attributi di esse. Voglio dire, ad esempio, se il solido è una certa sostanza, e così pure sono sostanze le linee e le superfici, è compito della stessa scienza, oppure di una scienza diversa, la conoscenza di queste cose e quella degli attributi che concernono ciascun genere di oggetti di cui si occupano le matematiche? Se rispondiamo che è compito della medesima scienza, allora anche la scienza della sostanza sarebbe una scienza dimostrativa, quantunque non sembri che si possa dare dimostrazione dell'essenza. Se invece diciamo che è compito di un'altra scienza, quale sarà mai quella scienza che studia gli attributi delle sostanze? È molto difficile dare qui una risposta. Quarta aporia. Inoltre, bisogna affermare che esistono solo sostanze sensibili o che ve ne sono anche altre al di fuori di esse? E che esiste un solo genere di sostanze o esistono più generi, come asseriscono i sostenitori delle idee e degli enti intermedi, dei quali ultimi, secondo loro, si occupano le scienze matematiche? In che senso noi sosteniamo che le idee sono cause e sostanze di per sé? L'abbiamo chiarito nei primi trattati su tali argomenti. E invero, quando essi affermano l'esistenza di un uomo in sé, o di un cavallo in sé, o della salute in sé, si comportano pressappoco allo stesso modo di quelli che pur dicono che gli dèi esistono, ma li considerano come aventi forme umane. Difatti, come costoro non hanno saputo concepire altro se non uomini eterni, così essi concepiscono le idee solo come enti sensibili eterni. Inoltre, se si porranno gli enti intermedi come distinti dalle idee e dagli enti sensibili, ne verranno fuori molte aporie, giacché ovviamente non solo verranno ad esistere altre linee oltre quelle ideali e quelle sensibili, ma la stessa cosa si riscontrerà anche per ciascuno degli altri generi di cose. E di conseguenza, se si tiene conto che l'astronomia è una delle scienze matematiche, si verrà ad ammettere l'esistenza anche di un altro cielo al di fuori di quello sensibile, e di un altro sole o di un'altra luna, e così pure di ogni altro corpo celeste. Eppure, come mai si può prestar fede a tali cose? Non è infatti ragionevole pensare che un tal cielo sia immobile, ma d'altra parte è assolutamente impossibile che esso effettui un movimento. E lo stesso avverrebbe per gli oggetti studiati dall'ottica e dalla dottrina matematica dell'armonia, giacché anche questi oggetti, per le medesime ragioni, non possono avere altra esistenza se non quella sensibile. Se infatti si ammette l'esistenza di entità intermedie di carattere sensibile e di sensazioni anch'esse intermedie, verranno ovviamente ad esistere animali intermedi tra gli animali in sé e gli animali corruttibili. E ci si troverebbe in difficoltà qualora si volesse sapere anche di quali enti debbano occuparsi tali scienze. Se infatti la geometria differisce dalla geodesia solo in quanto quest'ultima si occupa di oggetti da noi percepiti, mentre essa si occupa di oggetti non percepibili, ovviamente verrà ad esistere qualche altra scienza oltre la medicina, e così pure nel caso delle altre scienze, ossia qualcosa di intermedio tra la medicina in sé e quella che noi pratichiamo. Ma come mai ciò potrebbe verificarsi? Se così fosse, infatti, vi dovrebbero anche essere cose sane al di fuori di quelle sensibili e di ciò che è sano in sé. Nello stesso tempo non sarebbe neppur vero che la geodesia si occupa di grandezze sensibili e corruttibili, cioè che anch'essa perirebbe quando queste si corrompono. Ma neppure l'astronomia si potrebbe occupare di grandezze sensibili né di questo cielo che noi vediamo. Difatti, le linee sensibili non sono per nulla tali quali le pretende il geometra, giacché non c'è alcuna cosa sensibile che sia retta o curva nel senso da loro indicato. E il cerchio non tocca la tangente in un sol punto, bensì nel modo indicato da Protagora nelle sue confutazioni contro i geometri. Né i moti e le orbite del cielo sono quali li enunciano i calcoli astronomici, né i punti simbolici degli astronomi hanno la stessa natura degli astri. Vi sono però alcuni i quali sostengono l'esistenza di questi cosiddetti enti intermedi tra le idee e gli oggetti sensibili, quantunque non li considerino separati dagli oggetti sensibili, bensì presenti in questi. Sarebbe troppo lungo condurre un dettagliato esame su tutte le assurdità che derivano da tale dottrina, ma tuttavia è sufficiente osservare quanto segue. In base a tali dottrine non è soltanto logico che si verifichi questo, ma ovviamente anche le forme ideali dovrebbero essere presenti negli oggetti sensibili, giacché tanto per le une quanto per gli altri vale lo stesso ragionamento. E oltre a ciò, due solidi verrebbero necessariamente a trovarsi nel medesimo luogo, e gli enti intermedi non sarebbero immobili, se non altro perché sono presenti in corpi sensibili in movimento. Insomma, che scopo c'è di porre l'esistenza di questi enti intermedi per poi richiuderla negli oggetti sensibili? Ne risultano solo le stesse assurdità di cui abbiamo parlato poc'anzi. Vi sarà un cielo oltre quello sensibile, con la sola differenza che esso non avrà esistenza separata, ma verrà a trovarsi nello stesso luogo, il che è ancora più assurdo. Paragrafo 3. Approfondimento della sesta e della settima aporia. Sesta aporia. Per conseguire la verità su questi punti si va dunque incontro a gravi difficoltà, ma non è meno difficile, per quanto concerne i principi, stabilire se si debbano concepire come elementi e principi i generi o non piuttosto le parti originarie da cui ogni cosa particolare è costituita. Come ad esempio sembrano essere elementi e principi di una parola quelli da cui sono composte le parole stesse come da loro parti originarie, e non già la parola nel suo insieme. E allo stesso modo anche per quanto concerne le proposizioni geometriche, noi diciamo che sono elementi quelli le cui dimostrazioni sono contenute nelle dimostrazioni o di tutte le altre proposizioni o almeno della maggior parte di esse. E inoltre, a proposito dei corpi, sia quelli che sostengono la pluralità degli elementi, sia quelli che ne ammettono uno solo, chiamano principi quelle cose da cui i corpi sono costituiti e di cui risultano composti, come fa ad esempio Empedocle, il quale parla del fuoco e dell'acqua e degli altri elementi che li accompagnano come di principi dalla cui immanenza deriva l'esistenza delle cose, ma non considera affatto questi elementi come generi delle cose. Del resto, se si vuole esaminare anche la natura di altri oggetti, ad esempio di un letto, tale natura si riconosce solo quando si sia pervenuti alla conoscenza delle parti da cui l'oggetto risulta composto e del modo in cui quelle parti sono messe insieme. Se pertanto si tiene conto di questi argomenti, i principi non si possono identificare con i generi delle cose. Ma se d'altra parte noi conosciamo ogni cosa particolare mediante le definizioni, e se i generi sono principi delle definizioni, allora si deve ammettere che i generi sono principi anche delle cose definite. E anche se l'acquisizione scientifica delle cose si identifichi con l'acquisizione scientifica delle specie, secondo le quali le cose stesse ricevono un predicato, anche in tal caso i generi sono principi delle specie. Anzi, sembra che anche alcuni di quelli che considerano elementi delle cose l'uno e l'essere, o il grande e il piccolo, si servono di questi come generi. Ma pure non è affatto possibile parlare dei principi in entrambe queste accezioni insieme. Difatti, il discorso definitorio della sostanza è uno solo, mentre la definizione eseguita mediante i generi è diversa da quella che che ci dice da quali elementi un oggetto è costituito. Aporia settima. Ma, oltre a ciò, anche a voler assumere che i generi sono principi nella maniera più peculiare, si devono considerare come principi i generi primi oppure quelli infimi, che sono immediatamente attribuiti agli individui. Anche questo punto, infatti, è discutibile. Se, in ogni caso, gli universali sono più propriamente principi, è evidente che sono principi sommi generi, giacché questi sono i predicati di tutte le cose. Vi saranno quindi tanti i principi delle cose quanti sono i generi primi, e di conseguenza l'essere e l'uno si identificheranno con i principi e con le sostanze, giacché appunto essi massimamente sono predicati di tutte le cose che esistono. Ma è impossibile che tanto l'uno quanto l'essere siano un unico genere delle cose, giacché le differenze di ciascun genere non solo necessariamente esistono, ma ciascuna di esse deve avere una sua unità. Ed è d'altra parte impossibile che le specie di un genere siano predicate di differenze specifiche e che il genere sia predicato senza le sue stesse specie, in modo che, se si considerano come genere l'uno e l'essere, nessuna differenza potrà né essere una. Ma se d'altra parte essi non sono generi, non saranno neanche principi, qualora si assuma che i generi sono principi. Inoltre, anche le specie intermedie, che sono assunte insieme con le differenze, saranno generi fino ad arrivare agli individui, mentre in realtà sembra che alcune specie siano tali e altre no. Oltre a ciò, vengono ad essere più propriamente principi le differenze che i generi. Ma se anche le differenze sono principi, allora dobbiamo ammettere che ci siano infiniti principi, massimamente se si pone come principio il genere più alto. D'altra parte, se è vero che l'uno sembra essere più peculiarmente principio, essere indivisibile è uno ed è indivisibile tutto quanto, o secondo la quantità o secondo la specie, essere indivisibile secondo la specie anteriore, mentre i generi da parte loro sono divisibili in specie, allora sarà più autenticamente uno ciò che viene immediatamente attribuito alla specie infima. Difatti l'uomo non è un genere degli uomini individualmente presi. Inoltre, gli oggetti che hanno una parte anteriore ed una posteriore non possono avere un loro attributo che abbia esistenza al di fuori degli oggetti stessi. Così, ad esempio, se la diade è il primo numero, non vi sarà alcun numero al di fuori della specie dei numeri particolari, e similmente non vi sarà alcuna figura al di fuori delle specie delle figure particolari. E se per queste cose non vi sono generi al di fuori delle specie, sarà abbastanza difficile che per le altre cose i generi esistano al di fuori della specie, giacché l'esistenza dei generi sembra ammissibile soprattutto nel caso dei numeri e delle figure. Invece, negli oggetti indivisibili non si riscontra affatto né una parte anteriore né una parte posteriore. Inoltre, in quei casi in cui ci sia un meglio e un peggio, il meglio avrà sempre la precedenza e perciò neppure in questi casi sarebbe possibile l'esistenza di un genere. Da queste considerazioni risulta con evidenza che sono principi predicati delle cose individuali piuttosto che i generi. Ma d'altra parte non è facile dire in che senso noi dobbiamo intendere che appunto questi siano i principi. Difatti è indispensabile che il principio o anche la causa trascenda gli oggetti di cui esso è principio e che possa esistere separato da questi. E l'esistenza di un tale principio che trascende le cose particolari può essere da noi concepita solo in ragione del fatto che essa sia un predicato universale che si riferisce ad ogni termine. Ma se questa è l'unica ragione plausibile, allora ciò che è maggiormente universale deve essere maggiormente posto come principio. E però dovrebbero essere principi i sommi generi. Paragrafo quarto. Approfondimento dell'ottava, nona, decima e undicesima aporia. Ottava aporia. Connessa con le precedenti è anche un'aporia che è la più difficile di tutte e che richiede, più di ogni altra, di essere studiata. E proprio su di essa si ferma ora il nostro discorso. Se non esiste nulla al di fuori delle cose individuali e se le cose individuali sono infinite per numero, Come mai è possibile acquistare conoscenza scientifica di tali cose che sono infinite? Noi infatti riusciamo ad avere conoscenza delle cose solo in quanto si riscontrino in esse unità e identità e solo in quanto esse abbiano qualche proprietà universale. Se però questo è necessario e se si deve ammettere l'esistenza di qualcosa al di fuori delle cose individuali, i generi verrebbero necessariamente ad esistere al di fuori delle cose individuali, e non solo i generi infimi, ma anche quelli sommi. Ma poco fa abbiamo esaminato l'impossibilità di una tale cosa. Inoltre, se si assume ad ogni costo che esiste qualcosa al di fuori del sinolo, ed io parlo di sinolo quando la materia assume un qualche predicato, allora se una tale cosa esiste, deve essa esistere al di fuori di tutte le cose, o soltanto al di fuori di alcune e non di altre, o infine al di fuori di nessuna? Orbene, se non esiste nulla al di fuori delle cose individuali, nulla sarebbe intellegibile, ma tutte le cose sarebbero sensibili e non vi sarebbe conoscenza scientifica di alcuna cosa, a meno che non si voglia identificare la sensazione con la scienza. Inoltre, non vi sarebbe nulla di eterno né di immobile, giacché le cose sensibili periscono tutte e sono in movimento. Ma d'altra parte, se non esiste nulla di eterno, è impossibile che ci sia anche la generazione. È infatti indispensabile non solo l'esistenza di ciò che si genera, ma anche l'esistenza di ciò da cui la generazione trae origine e che il supremo termine della serie sia ingenerato, dal momento che la serie stessa deve fermarsi ed è impossibile che la generazione provenga dal non essere. Ma oltre a ciò, se esistono generazioni in movimento, ci deve essere necessariamente anche un limite. Infatti, nessun movimento è infinito, ma di ciascun movimento esiste un compimento, né è possibile che cominci a generarsi ciò che non è in grado di completare la propria generazione. E ciò che è stato generato non può non esistere fin dal primo momento che sia stato generato. Ma oltre a ciò, se la materia ha una sua esistenza separata per il solo fatto che essa è ingenerata, è ancora molto più logico porre l'esistenza separata della sostanza, ossia di ciò che la materia stessa diviene a un determinato momento, giacché se non si ammetterà l'esistenza né dell'una né dell'altra, allora non esisterà proprio nulla. Ma se quest'ultima cosa è impossibile, allora non si potrà non ammettere l'esistenza di qualcosa al di fuori del sinolo, ossia l'esistenza della forma e della specie. Ma se si ammetterà l'esistenza separata della forma, allora si incontrerà difficoltà a stabilire per quali cose si debba ammettere tale esistenza separata della forma e per quali no. Che essa non si possa ammettere per tutte quante le cose è evidente, giacché noi non potremmo porre l'esistenza separata, ad esempio, di una certa casa al di fuori delle case particolari. Ma oltre a ciò, dobbiamo noi considerare come unica la sostanza di tutte le cose? Ad esempio degli uomini? Ciò sarebbe assurdo, già che tutte le cose, la cui sostanza è una, sono anch'esse una cosa sola. Bisogna allora ammettere una molteplicità e una differenziazione di sostanze? Ma anche questo è illogico. E nello stesso tempo, come può la materia diventare ciascuna di queste cose particolari e come mai il sinolo può essere insieme materia e forma? Aporia nona. Inoltre, a proposito dei principi, può rilevarsi anche la seguente aporia. Se essi hanno un'unità solo specificamente, nessuno di essi sarà uno numericamente, neppure l'uno in sé e l'essere in sé. E, stando così le cose, come sarà possibile la conoscenza scientifica, dal momento che non vi sarà alcun termine che sia unico per una totalità di cose? Ma d'altra parte, se si ammette l'unità numerica dei principi, e se ciascuno di essi è unico, e se essi non sono diversi secondo la diversità delle cose, come si riscontra negli oggetti sensibili, così ad esempio, poiché una determinata sillaba è specificamente identica ad un'altra, anche i suoi elementi costitutivi sono identici per specie a quelli dell'altra, ma soltanto per specie, giacché per numero essi sono diversi. Se dunque i principi delle cose hanno un'unità non solo specifica, ma anche numerica, allora al di fuori degli elementi non esisterà nient'altro, giacché non c'è alcuna differenza se si parla di unità numerica o di oggetto individuale. Infatti, noi chiamiamo oggetto individuale proprio quello che è numericamente uno e chiamiamo universale ciò che viene predicato di tutti gli oggetti individuali. Di conseguenza, si avrebbe che, siccome ad esempio gli elementi della voce sono limitati numericamente, tutte le lettere che noi scriviamo saranno necessariamente tante di numero quanti sono gli elementi stessi, dal momento che non vi potranno essere né due né più lettere della medesima specie. Aporia decima. Ma c'è una difficoltà per nulla meno grave, la quale è stata accantonata sia dai nostri contemporanei sia dai più antichi. Se cioè i principi delle cose corruttibili e quelli delle cose incorruttibili siano i medesimi o siano diversi. Se infatti essi sono i medesimi, come mai e per qual motivo alcune cose sono corruttibili e altre incorruttibili? I contemporanei di Esiodo e tutti quanti i teologi badarono soltanto alle loro personali convinzioni, ma non si diedero pensiero di noi, essi infatti, considerando i principi come divinità o come generati da divinità, asseriscono che sono mortali tutte quelle cose che non gustano il nettare e l'ambrosia, e non c'è dubbio che introducono questi nomi come se si trattasse di cose a loro ben note. Tuttavia, quello che essi hanno detto circa l'applicazione di queste cause è una cosa superiore alle nostre forze. Se infatti gli immortali si cibano del nettare e dell'ambrosia solo per provare piacere, allora questi cibi non sono affatto la causa della loro esistenza. Ma se invece la loro vita dipende da questi cibi, come mai gli dèi potrebbero essere eterni nel momento che sono bisognosi di nutrimento? Ma non è il caso di prendere in seria considerazione le mitiche sottigliezze. Bisogna invece rivolgersi a quelli che si servono di dimostrazioni e chiedere loro con insistenza perché mai, pur derivando dai medesimi principi, alcuni esseri sono eterni ed altri periscono. Ma poiché costoro non ci sanno indicare la causa di ciò, e poiché non è logico che le cose stiano così, è ovvio che né i principi né le cause di siffatti esseri potrebbero essere gli stessi per tutti. Anche quel pensatore che sembrerebbe esprimersi con la massima coerenza, ossia Empedocle, anche lui va soggetto allo stesso rimprovero. Egli infatti pone un principio, ossia la contesa, come causa della distruzione, ma nondimeno potrebbe sembrare che questa generi ogni cosa, tranne l'uno, giacché tutte quante le altre cose, eccetto la divinità, derivano da questa. Ecco come egli dice: nascon da lor quante cose vi furono e quante vi sono, e gli alberi misero germogli, e gli uomini e anche le donne, e fiere e volatili e pesci che d'acqua si fanno alimento, anche gli dei longevi. Ma ciò è ovvio anche se si prescinde da questi versi, giacché se la contesa non fosse presente nelle cose, tutte le cose si ridurrebbero a una sola, come egli stesso dice. Infatti, quando le cose si furono riunite, proprio allora discordia levossi alla fine. Perciò gli capita anche di ritenere che Dio, l'essere beatissimo, sia meno saggio degli altri esseri, giacché non conosce tutte quante le cose. Egli infatti non ha come sua proprietà la contesa, mentre solo mediante il simile si ha conoscenza del simile. Infatti Empedocle dice: l'acqua vediamo con acqua, vediamo la terra con terra, con etere l'etere vivo, amor con amore, contesa, vediamo con luttuosa contesa. Ma per riprendere il nostro discorso, una cosa risulta con evidenza, ossia che, secondo tale dottrina, la contesa è causa di esistenza non meno che di distruzione, né da parte sua l'amicizia è causa di esistenza, giacché essa, riducendo tutto all'unità, distrugge le altre cose. Anzi, nello stesso tempo, Empedocle non dà nessuna spiegazione neppure della causa del cambiamento, ma si limita ad asserire che così è per natura. Ma quando grande e cresciuta contesa nel corpo del mondo, essa si aderge agli onori, essendosi il tempo compiuto, che con un patto solenne per loro vicenda è fissato. Volendo dire che il cambiamento è necessario, ma di questa necessità egli non adduce con chiarezza alcuna causa. Tuttavia Empedocle è l'unico a parlare con coerenza di questa questione, giacché egli non sostiene che alcuni esseri sono corruttibili ed altri incorruttibili, ma che tutti sono corruttibili tranne gli elementi. Ma la difficoltà da noi attualmente prospettata è quella di sapere per quale motivo alcune cose sono corruttibili e altre no, pur derivando dagli stessi principi. che i principi di tutte le cose non possano essere gli stessi è dimostrato dalle precedenti considerazioni. Ma se d'altra parte si ammette che essi sono diversi, sorge almeno una difficoltà, se cioè anch'essi si debbano ritenere incorruttibili o corruttibili. Se infatti essi sono corruttibili, è ovviamente indispensabile che essi derivino da qualche altra cosa, giacché tutto ciò che perisce si dissolve negli elementi da cui è scaturito. Onde si dovrà ammettere che esistono altri principi anteriori ai principi stessi. Ma ciò è impossibile, tanto se si pone un limite quanto se si procede all'infinito. Ma oltre a ciò, come viene assicurata l'esistenza stessa delle cose corruttibili una volta che i principi saranno stati soppressi? E d'altra parte, se i principi non si possono mai corrompere, perché mai da alcuni di questi, che pur sono incorruttibili, dovranno derivare cose corruttibili e da altri dovranno invece derivare cose non soggette alla corruzione? Ciò non è conforme alla logica, ma o è del tutto impossibile o almeno richiede una lunga discussione. Oltre a ciò, nessun filosofo ha osato parlare di principi differenti, ma tutti sostengono che i principi di tutte le cose sono gli stessi. Però essi si limitano solo a derivare l'aporia che noi abbiamo posto da prima, considerandola come una cosa di poco conto. Aporia undicesima. Ma la questione più ardua ad esaminarsi, quella la cui soluzione è la più indispensabile per la conoscenza della verità, sta nel sapere se l'essere e l'uno siano sostanze di tutte le cose, ossia se ciascuno di essi sia rispettivamente niente altro se non l'uno e l'essere. Oppure, se dobbiamo ricercare che cosa mai sia l'essere e che cosa mai sia l'uno, col porre come loro sostrato un'altra entità naturale. Difatti, alcuni concepiscono la natura dell'essere e dell'uno secondo la prima maniera, altri secondo l'altra. Così Platone e i pitagorici sostengono che tanto l'essere quanto l'uno non sono qualcosa di diverso ciascuno da se stesso, ma che questa è appunto la loro natura, giacché secondo loro la sostanza di queste due cose non è altro se non essere come uno ed essere come essere. Diversamente invece la pensano i naturalisti, e così Empedocle, ad esempio, cercando di riportare il principio a qualcosa di più noto, dice che cosa è l'uno. Potrebbe infatti sembrare che egli lo identifichi con l'amicizia. Questa almeno è causa dell'unificazione di tutte le cose. Altri invece identificano col fuoco, altri ancora con l'aria, questa unità e questo essere da cui le cose sono costituite e sono state generate. E questo è il modo di pensare anche di quei filosofi che pongono un maggior numero di elementi, giacché anche costoro non possono non affermare che l'uno e l'essere si identificano con tante cose quanti sono almeno i principi da loro sostenuti. E se non si stabilirà che l'uno e l'essere si identificano in un certo senso con la sostanza, risulterà di conseguenza che neppure alcun altro termine universale si identifica con la sostanza, giacché l'uno e l'essere sono i termini più universali di tutti. E se non esistesse alcuna unità in sé e alcun essere in sé, non si vede alcuna possibilità che possa esistere qualche altra entità al di fuori delle cosiddette cose individuali. E oltre a ciò, se l'uno non si identifica con una sostanza, è ovvio che neppure il numero potrà essere una particolarità naturale degli esseri a sé stante, già che il numero si compone di unità e l'unità non è altro se non una certa specie di uno. Se poi d'altra parte esistono un uno in sé e un essere in sé, l'uno e l'essere sono necessariamente la loro stessa sostanza, già che non c'è alcun'altra cosa che faccia da predicato all'uno e all'essere, tranne queste stesse due cose. Ma se si ammette l'esistenza di un essere in sé e di un uno in sé, si troverà una grave difficoltà a stabilire come mai possa esistere qualche altra cosa al di fuori di essi, vale a dire come mai possa esistere più di una sola cosa. Infatti, ciò che è differente dall'essere non è. Però, secondo il ragionamento di Parmenide, risulta che tutte quante le cose esistenti sono una cosa sola e quest'unica cosa è l'essere. Comunque, in tutti e due i casi la difficoltà non viene rimossa, già che tanto nel caso che l'uno non sia una sostanza, quanto nel caso che ci sia un uno in sé, è impossibile che il numero sia una sostanza. Nel caso che l'uno in sé non sia una sostanza, noi abbiamo già precedentemente detto perché il numero non possa essere sostanza. Nel caso invece che l'uno sia sostanza, si riscontrerà per esso la medesima aporia che si è riscontrata per l'essere. Che cosa, infatti, ove si prescinde dall'uno, può assicurare l'esistenza di un qualche altro uno in sé? Quest'altra cosa sarà certamente non una, ma tutte quante le cose esistenti sono ciascuna una sola cosa, oppure una molteplicità di cui ciascun componente è uno. Oltre a ciò, se l'uno in sé è indivisibile, esso, secondo il postulato di Zenone, verrà a identificarsi col nulla. Infatti, una cosa che, quando viene aggiunta, non rende maggiore un'altra cosa, e quando viene sottratta non la rende minore, non rientra, secondo lui, nel novero delle cose esistenti, qualora si ritenga ovviamente che l'essere è una grandezza. E se è una grandezza, esso è corporeo, giacché solo ciò che è corporeo esiste in ogni dimensione. Invece le altre cose, quali ad esempio una superficie o una linea, quando vengono aggiunte, per un aspetto rendono l'altro oggetto più grande e per un altro no. Mentre il punto e l'unità non causano accrescimento in nessun modo. Ma poiché Zenone ci dà una teoria grossolana e poiché è ammissibile l'esistenza di qualcosa che sia indivisibile, ne consegue la possibilità di replicare contro di lui anche in questo modo, ossia facendo notare che una tale cosa, quando viene aggiunta, fa aumentare pur sempre il numero, anche se non fa aumentare la grandezza. Ma tuttavia, come mai da un uno così concepito o da una molteplicità così concepita potrà risultare composta una grandezza? Ciò equivarrebbe all'asserzione che la linea è composta da punti, ma anche a voler pensare che il numero, come affermano certuni, si genera dall'uno in sé e da qualche altra cosa che non è uno, non di meno resta aperto il problema per qual motivo e come mai la cosa che ne viene fuori è talora un numero, talora una grandezza, se è vero che ciò che non è uno si identifica con l'ineguaglianza ed ha la stessa natura di questa. Infatti non risulta con chiarezza come mai le grandezze possano essere generate tanto dall'uno e dall'ineguaglianza, quanto da quest'ultima e da un numero. Paragrafo 5. Approfondimento della 14ª aporia. Si ricollega alle precedenti questioni l'aporia se i numeri e i solidi e le superfici e i punti siano sostanze o no. Se essi non sono sostanze, allora ci sfugge che cosa sia l'essere e quali siano le sostanze delle cose esistenti. Difatti le affezioni e i movimenti e le relazioni e le disposizioni e le proporzioni non sembrano indicare la sostanza di alcuna cosa, giacché tutte queste determinazioni non sono altro che attribuzioni di un certo sostrato, e nessuna di esse è una sostanza particolare. Per quanto poi concerne quelle cose che sembrerebbero indicare nel modo più precipuo una sostanza, ossia l'acqua, la terra, il fuoco e l'aria, da cui i corpi composti risultano costituiti, c'è da rilevare che i loro riscaldamenti e i loro raffreddamenti e le altre simili affezioni non sono sostanze, mentre il corpo solido che subisce tali affezioni è l'unica cosa che permanga come qualcosa di reale e come una certa sostanza. D'altra parte, il corpo ha minori titoli per essere sostanza rispetto alla superficie, e questa ha minori titoli rispetto alla linea, e questo ancora rispetto all'unità e al punto, giacché il corpo è determinato da queste cose e sembra che queste cose possano sussistere senza il corpo, mentre è impossibile l'esistenza del corpo senza di esse. Ecco perché, mentre gli uomini comuni e i pensatori più antichi erano del parere che il corpo si identifichi con la sostanza e con l'essere, e che le altre cose siano affezioni di quello, e che quindi i principi corporei non siano altro che i principi di tutta la realtà, i pensatori che sono venuti dopo, e che sono ritenuti anche più sapienti di quelli, sono stati del parere di identificare la sostanza e l'essere con i numeri. Pertanto, come già dicevamo, se tali determinazioni non sono sostanza, allora tanto l'essere quanto la sostanza non esistono affatto, giacché gli attributi accidentali di tali determinazioni non hanno alcun diritto di essere chiamati esseri reali. Ma d'altra parte, se si ammette questo, che cioè le lunghezze e i punti hanno rispetto ai corpi maggiori titoli per essere sostanza, allora, a meno che noi non riusciamo a vedere a quali corpi essi appartengano, ed è invero impossibile che si riscontrino in corpi sensibili, non esisterà sostanza alcuna. Inoltre, è evidente che tutte queste determinazioni non sono altro se non divisioni del corpo, ossia la linea è una divisione operata secondo la larghezza, la superficie secondo la profondità, il punto secondo la lunghezza. Oltre a ciò, o nel solido è presente allo stesso modo una qualsivoglia figura, oppure il solido stesso non è nulla. Eppure, se Ermete non è nella pietra, neppure la metà del cubo è nel cubo, come qualcosa di determinato. Quindi non c'è neppure una superficie, giacché se ve ne fosse una qualsivoglia, sarebbe appunto essa che limiterebbe la metà del cubo. E lo stesso discorso va fatto per la linea, per il punto e per l'unità. E in conclusione, se da una parte il corpo ha più titoli delle altre determinazioni per essere sostanza, e se d'altra parte queste altre determinazioni hanno più titoli del corpo, e se queste altre determinazioni non sono affatto sostanze, allora ci sfugge qual è l'essere e qual è la sostanza delle cose esistenti. In aggiunta alle precedenti considerazioni, sono da tener presenti anche le assurdità che vengono fuori qualora si esamini il problema sotto il profilo della generazione e della corruzione. È ovvio infatti che la sostanza, sia quando esista nel presente mentre prima non esisteva, sia quando non esista in un momento posteriore mentre prima esisteva, subisce questi cambiamenti secondo un processo di generazione e di corruzione. Ma i punti e le linee e le superfici non possono né generarsi né corrompersi, quantunque certe volte ci siano e certe altre no. Difatti, secondo che i corpi vengono congiunti o divisi, simultaneamente viene a prodursi una sola superficie quando i corpi sono congiunti e se ne producono due quando i corpi sono divisi. Di conseguenza, quando i corpi sono riuniti, le superfici non esistono, ma vengono distrutte, e quando i corpi vengono divisi, esse vengono ad esistere mentre precedentemente non esistevano. Naturalmente però il punto che è indivisibile non è stato affatto diviso in due. Ma allora, se queste determinazioni sono sottoposte alla generazione e alla corruzione, da che cosa sono esse prodotte? Per loro la faccenda sta approssimativamente come per l'istante, che noi riscontriamo nel tempo, giacché neppure l'istante è soggetto alla generazione e alla corruzione, quantunque esso appaia ogni ora diverso per il fatto che non è sostanza. Ed è ovvio che la faccenda stia anche per le superfici allo stesso modo di come sta per i punti o per le linee. Le argomentazioni infatti sono le stesse, giacché tutte quante queste cose sono o limiti o divisioni. Paragrafo sesto, breve digressione sull'idealismo e approfondimento delle restanti aporie. Sotto un profilo ancor più ampio può sorgere il problema per quale motivo si debbano cercare, oltre le cose sensibili e quelle intermedie, anche certe altre entità, quali sono ad esempio le specie ideali che noi ammettiamo, che noi platonici ammettiamo. Se il motivo sta nel fatto che gli enti matematici, pur differendo per qualche altro aspetto dalle cose di questo mondo, sono invece indifferenti da esse in quanto sono una pluralità di cose facenti parte della medesima specie, in modo che i loro principi non sono numericamente delimitati, e proprio come i principi di tutto il nostro umano linguaggio non sono limitati per numero ma per specie, a meno che non si assuma isolatamente una sillaba o un suono particolare, nel qual caso i principi di questi saranno limitati anche numericamente, così avviene anche per gli enti intermedi, giacché anche in questo settore si riscontra una infinità di enti della medesima specie. E di conseguenza, se non esistono al di fuori degli oggetti sensibili e degli enti matematici certe altre entità aventi le medesime caratteristiche che secondo alcuni filosofi hanno le idee, allora non potrà esistere una sostanza che sia una per numero e per specie, né i principi delle cose saranno determinati numericamente, ma solo specificamente. Se pertanto non si può sfuggire a una tale conclusione, non si può neppure evitare di porre l'esistenza delle idee. Difatti, anche se gli idealisti non articolano bene le loro teorie, tuttavia è proprio questo ciò che essi intendono dire, e non possono non giungere a tali affermazioni, perché perché ciascuna forma ideale particolare è una sostanza e nessuna di tali forme esiste per accidente. D'altra parte, però, se noi stabiliremo che le specie ideali esistono e che i principi hanno una unità numerica ma non specifica, non si potrà evitare di giungere a quelle assurdità di cui abbiamo già parlato. Aporia tredicesima. Strettamente connesso con queste questioni è il problema se gli elementi esistano solo in potenza oppure in qualche altro modo. Se essi esistono in qualche altro modo, vi sarà qualche altra cosa che precede i principi, giacché la potenza è anteriore alla causa in atto e tutto ciò che è in potenza non è affatto necessariamente in atto. Se al contrario gli elementi esistono solamente in potenza, si avrà anche l'eventualità che nulla esista, giacché ha la potenza di esistere anche ciò che non esiste ancora. Difatti, ciò che non esiste ancora può essere generato, mentre non è generata alcuna cosa che non abbia la potenza di esistere. Aporia dodicesima. Queste sono dunque le aporie sulle quali bisogna riflettere a proposito dei principi. Ma noi ci dobbiamo infine chiedere se i principi siano universali oppure somiglino a quelle cose che noi chiamiamo individuali. Se sono universali, essi non saranno sostanze, giacché nessun termine comune sta a indicare un qualcosa di particolarmente determinato, ma soltanto una certa qualità, mentre la sostanza è appunto qualcosa di particolarmente determinato. Ma se il predicato comune sarà un oggetto determinato e se è necessario porlo al di fuori delle cose particolari, allora Socrate si identificherà con una pluralità di cose, cioè con se stesso, con l'uomo e con l'animale, dal momento che ciascuno di questi predicati sta a indicare qualcosa di particolarmente determinato ed unico. Se pertanto i principi sono universali, queste sono le conseguenze. D'altra parte, però, se essi non sono universali, ma somigliano alle cose individuali, essi non saranno scientificamente conoscibili, giacché tutte le scienze hanno per oggetto l'universale. E di conseguenza, se si pretende che vi sia una scienza dei principi, prima dei principi stessi vi dovranno essere altri principi che fungano da predicati universali.